Storiacce di Raffaella Calandra. L'euforia del Capodanno, l'eco dei fuochi d'artificio, poi con l'aumentare della notte e dell'alcol, la festa di Colonia diventa un incubo per le donne, accerchiate, molestate, violentate da gruppi di uomini stranieri, arabi e nordafricani, lasciando sotto shock l'intera Germania e minando la Willkommenpolitik della cancelliera, che ha portato nel 2015 1.100.000 profughi. 121 le denunce solo di Colonia, ma si fanno sempre più numerose anche quelle registrate ad Amburgo, ma pure ad Helsinki, Salisburgo o Zurigo, con un effetto domino strumentalizzato dalle destre e che spaventa paesi come la Slovacchia, che ora chiudono le porte ai profughi musulmani. E allora, dall'imponente duomo gotico di Köln, con le sue guglie imperiose e austere, proprio da questo piazzale vicinissimo alla Hauptbahnhof, alla stazione centrale, teatro delle aggressioni di massa di Capodanno, parte questa puntata di Storiacce. Intanto è stato praticamente anche fallito, diciamo, la polizia, e cioè assolutamente un senso di non essere protetto, no, per quanto riguarda le donne, anche perché dopo quello che è successo in quella notte, tra i consigli non desiderati, tra l'altro, c'era il sindaco, che è una donna di Colonia, che ha detto che bisognerebbe, che ha consigliato alle ragazze di tenersi lontano, distanza un braccio di questi aggressori, insomma di uomini in degli estranei, parole che hanno provocato anche molte polemiche. Appunto, questo è già una cosa assurda, voglio dire, no? Cioè, ma solo il pensiero di dare un consiglio del genere. Come giustamente sottolinea Petra Reschi, scrittrice tedesca molto attenta anche alle vicende italiane, il primo punto di questa assurda storiaccia di Colonia, che rischia di mettere a rischio tutte le politiche sull'accoglienza, è proprio la debacle delle forze dell'ordine, che in quella notte del caos e della vergogna, per dirla con le parole di un funzionario di polizia che ha stilato un rapporto interno, si sono ritrovate poche e incapaci di far fronte a tutte le richieste di soccorso. All'improvviso questi uomini ci circondarono, hanno cominciato a palpeggiarci, ci toccavano il sedere, in mezzo alle gambe, dappertutto. Un ragazzo ha afferrato la mia borsa e me l'ha sfilata. Ho pensato che se qualcuno avesse avuto un coltello ci avrebbe ucciso. E ora ho paura di uscire da sola. Vedevo ragazze piangere, altre erano senza mutandine e avevano tracce di sangue sui vestiti. C'era confusione e così tante persone che io e la mia amica non sapevamo dove andare. Siamo corse verso la polizia, ma non c'era nessuno. Erano pochi. E abbiamo capito che noi donne dovevamo vedercela da sole. La voce delle donne di Colonia diventa un terremoto nella Germania delle porte aperte ai profughi. La rabbia di chi reclama il diritto a non avere paura per strada dopo le aggressioni di Capodanno travolge la polizia e il sindaco e diventa una spina per la cancelliera. Angela Merkel, dove sei? Chiede uno striscione per strada. Tra i primi identificati anche dei richiedenti asilo, accusati però solo di furti e lesioni, non di molestie sessuali. Di sicuro però questa vicenda sta imponendo in Germania e a catena in tutto il cuore dell'Europa, che a nord ripristina i controlli e che ad est ora dice di non volere profughi musulmani, una revisione dei piani per le espulsioni più facili e un nuovo complicato dibattito sull'integrazione, che passa anche attraverso il corpo delle donne. Di questo è convinto Maurizio Ambrosini, professore dell'Università Statale di Milano, autore di Non passa lo straniero. Io credo che il ruolo, la libertà della donna sia un grande tema divisivo nel mondo e in particolare in molti ambienti, culture, sistemi tradizionali, la donna, la sua libertà, la sua istruzione, sto pensando a Boko Haram in questo momento, è vista come l'emblema di una modernità minacciosa. E quindi la reazione nei confronti delle libertà, dell'autodeterminazione femminile è un modo di riaffermare valori tradizionali che in quei mondi si sentono messi sotto pressione dall'arrivo della civiltà occidentale, dalla pressione del dominio occidentale. Cioè, per purtroppo dirla in modo donne... esplicito, professore, sì, per un gruppo di persone che arrivano da culture dove c'è la donna viene diciamo più o meno costretta a indossare il velo, se non addirittura il burka, il fatto di arrivare in città dove ci sono donne libere che bevono, camminano, indossano minigonne o indossano come si vestono, come ritengono, agli occhi di queste persone come vengono viste? Dipende, adesso dovremmo dire statisticamente la grande maggioranza se ne fa una ragione. Probabilmente non sono particolarmente contenti, favorevoli al modo in cui si esprimono le donne occidentali, ma non mettono in atto pratiche di violenza, di intolleranza, di abuso nei loro confronti. Tra l'altro le donne islamiche che in Occidente mettono il velo, quando sono intervistate dicono invariabilmente che è una loro scelta, per le più diverse ragioni, ma anch'io tendo a credere che l'idea delle povere donne islamiche oppresse e costrette, come dice, la testa ai piedi, sia un nostro stereotipo. Certo. Però certo. Quello che è vero, invece, è che il corpo della donna è forse da sempre l'oggetto di battaglie culturali e politiche. Una volta anche da noi c'era il problema delle donne che si vestivano troppo poco, oggi c'è il problema che si vestono troppo. E dall'altra parte, in alcune frange, in alcuni casi, gruppi di giovani uomini, certo il contatto, il rapporto problematico con le libertà occidentali e con il modo appunto in cui le donne esprimono la loro autodeterminazione suscita delle reazioni sbagliate e dei comportamenti intollerabili. Anche lei la percezione che questi fatti e la reazione che stanno avendo possono effettivamente mettere in dubbio e far vacillare la Willkommen Politik della cancelliera? Sì. Certamente si stanno entrando prepotentemente in un dibattito politico-mediatico in cui i fatti di Colonia stanno mettendo in difficoltà la politica di accoglienza dei rifugiati, ma è proprio questa confusione che a mio avviso bisogna evitare. Vorrei ricordare che la Germania non ha avuto negli ultimi decenni, per esempio, rivolte urbane come quelle delle banlieue francesi o inglesi. Non ha nemmeno avuto, toccando ferro, attacchi terroristici. Di per sé, diciamo, vista nel suo complesso, la situazione tedesca, nonostante gli alti numeri di immigrati che si sono stratificati nel tempo, tra cui italiani, non solo turchi e altre nazionalità, ma la Germania, non avendo, va detto, neanche grandi metropoli come Parigi o Londra, è un paese che ha integrato gli immigrati meglio dei suoi vicini. Parlare di un fallimento delle politiche di integrazione tedesche e in particolare delle politiche nei confronti dei rifugiati in relazione a questi deprecabili fatti di cronaca mi sembra una confusione appunto che va evitata. Quindi io cercherei di tenere distinti i due aspetti. Un conto è, mi sembra, analizzare, capire, condannare, reprimere violenze, in particolare odiose violenze contro le donne. Un altro è partire da lì per dire che sbaglia la Germania ad accogliere i rifugiati. Quello che è successo nella notte di San Silvestro è inaccettabile e ripugnante, scandisce Frau Merkel, che chiede ora segnali chiari e pensa ad un piano per accelerare le espulsioni di chi commette reati. La cronaca, anche italiana, è piena di episodi drammatici, di difficile convivenza di culture, soprattutto per le donne. Un caso per tutti, quello di Ina, la ragazza uccisa nel Bresciano perché voleva vivere all'occidentale. Ma se quanto successo in Germania sta avendo lo stesso impatto emotivo di un attentato, è perché la notte di Colonia ha minato alcune delle libertà centrali del modo di vivere delle donne nelle città tedesche, della loro libertà che io stessa, vi voglio confessare, ho potuto sperimentare ed imparare a conoscere. Ed è questa paura che ora può avere effetti profondi, e da qui allora ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione, qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Storiacce. Gibt viele andere vor Möglichkeiten. C'è sempre la possibilità di restare almeno alla distanza di un braccio da questi uomini. Come in una sorta di decalogo, il sindaco di Colonia, Henriette Reka, dà pure questo suggerimento alle donne tedesche come precauzione per evitare di trovarsi nella stessa situazione in cui a Capodanno a decine sono state derubate, palpeggiate, molestate. Parole che hanno alimentato polemiche e sberleffi, soprattutto sul web, e hanno fatto finire sotto accusa anche il Burgermeister di questa città, oltre ovviamente alla polizia, che a Capodanno ha subito una delle sue peggiori sconfitte, ammette Rudy Catusto, poliziotto della Criminal Pol di Colonia. I problemi che noi abbiamo a Colonia non bastano quando un questore va in pensione. I problemi restano. Non abbiamo tanti poliziotti, nemmeno per la strada, nemmeno in commissariato. E così, dopo questa dimissione, la storia non finisce. Lei, che è un poliziotto e appunto è della Criminal Pol, per cui conosce molto bene anche le dinamiche criminali, tutti quanti ci si chiede: ma com'è possibile che per tante ore ci siano state delle aggressioni a così tante persone nel centro di Colonia? Nulla è successo. Quando tu hai 1000 delinquenti, 1000 persone che sono molto aggressive, molto, molto forti, e all'altra parte tu hai un corpo, una squadra della polizia che ha 100 persone, non può funzionare, controllare esattamente, non è possibile arrestare. Sai, a Roma, quando sono stati i tifosi dal Nederlanda, Olanda, sì, ci sono stati gravi danni, tanti problemi, e la polizia sapeva che ci sono tifosi che sono un po' matti, che sono aggressivi. Qui, prima del Capodanno, nessuno sapeva che vengono 1000 persone molto aggressivo. Il ministro della giustizia ha parlato di una nuova forma di criminalità organizzata. Ora... No, non è giusto. È un errore del ministro della giustizia. Una criminalità organizzata è come la mafia, Camorra. Esatto. Questo sono solo delinquenti che lavorano in gruppi, fanno reati gravi, ma non è una criminalità organizzata. Ma secondo lei è in qualche modo qualcosa che era stato comunque già organizzato? Si pensa che si hanno telefonato prima, hanno fatto un incontro su Facebook o altre cose nell'internet per avere un incontro a Colonia. Penso, perché non c'è un... Non credo che è successo un... Una coincidenza? Non credo. Penso è stato organizzato. Ma questo tipo è nuovo. Gruppo grande, come 1000 persone, per esempio, insieme con reati sessuali. Questa è una nuova dimensione. Questa è una nuova cosa anche per la polizia a Colonia, ma anche a Amburgo e anche a Stoccada. E questa è una nuova dimensione, e spero veramente che non è in futuro, non resta in futuro così. Per questo motivo siamo in giro adesso con 80 poliziotti, 100 poliziotti della Criminal Polizei, del Criminal Pol, per sapere, per lavorare, per capire che cosa no, che erano le persone, da dove sono venuti a Colonia, chi ha fatto reati, chi era solamente là per festeggiare. Queste sono cose che stanno all'inizio del nostro lavoro e non alla fine. Forse fra un mese sappiamo un po' di più. Però intanto già sappiamo che tra i sospettati ci sono anche alcuni richiedenti asilo. E questo chiaramente è un elemento che, da un punto di vista quantomeno politico... Sono sicuro che durante le persone che hanno fatto i problemi erano persone che hanno un soggiorno a Colonia, che ci sono persone che hanno preso asilo. Forse ci sono stati persone che sono venuti dall'altra parte della Renania-Vestfalia. Può essere. Alla fine sappiamo un po' di più. Ripeto, siamo all'inizio del nostro lavoro e continuiamo giorno per giorno per capire meglio tutte le cose che sono successe. E questo lavoro è molto, molto pesante, perché abbiamo bisogno di vederci, ci sono videografie, film, ci sono vittime che erano fuori della città e parlano solo adesso. Fatti del genere possono ripetersi anche in altri paesi che hanno avuto un aumento così forte di migranti, come l'Italia, ad esempio? Perché no? Sicuro, può succedere dappertutto. Questa vicenda ha rappresentato di sicuro anche un po' una sconfitta per la polizia tedesca. Che dice? Che conseguenze avrà? Nel Capodanno, nella notte di Capodanno, non abbiamo vinto questa battaglia, sicuramente no. Ma per questo è importante che in futuro vinciano tutte le battaglie che vengono, eh? È chiaro. Con un po' di più di poliziotti, con conseguenze della giustizia. Tutte le persone devono andare ad un tavolo rondo per parlare che cosa deve succedere in futuro per risolvere questi problemi che abbiamo avuto a Colonia. Non ho voglia che ritorna di nuovo una situazione come abbiamo avuto a Capodanno a Colonia. Non è brutto per la polizia, ma è brutto anche per la città, per la gente, per i turisti, per l'economia, per tutti. Io ho vissuto 6 mesi, tempo fa, tra Colonia e Düsseldorf. Voglio raccontarvelo. Stavo preparando la mia tesi di laurea sulla tragedia greca e bisognava necessariamente sapere il tedesco. Lì, tra queste città, per la prima volta, ho visto cosa significhi la libertà di girare da sola, anche di notte, di prendere treni a tutte le ore, di camminare, uscire senza alcuna preoccupazione per la sicurezza, cosa che in Italia, almeno in molte città italiane, non è possibile. Ed è per questo che ora sono convinta che il disorientamento e la rabbia delle donne tedesche possa avere lo stesso impatto di un attentato, perché, concorda Petra Reschi, scrittrice tedesca, è lo stile di vita, ancora una volta, messo in discussione. Questo, quello che è successo, sfrutta il risentimento, soprattutto gestito dell'estrema destra tedesca contro gli stranieri. Dunque, questo è un... Quindi pensi che questa vicenda possa avere delle ripercussioni anche politiche, viste le prossime elezioni regionali? Assolutamente, visto già che adesso tutta questa vicenda viene sfruttata da chiunque per gli scopi politici, questo è una cosa che è molto grave, no? Dunque, in teoria la cosa è che ormai nessuno in Germania, quelli che ovviamente una ragazza non deve avere paura di prendere il treno la sera di Capodanno e di trovarsi in una situazione del genere. Però non può essere neanche che uno, quando dice questi che mi hanno aggredito erano nordafricani, di essere trattato come un razzista. Dunque questa è una cosa, è completamente scombussolato tutta la situazione. Quello, quando dici questo aveva i tratti somatici in arabo, non è per forza razzista, ma è solo una descrizione per primo, no? Dunque, tra un politicamente corretto esagerato e un estremismo di destra anche esagerato, dunque bisogna anche ritrovare un po' un equilibrio, e questo è il problema in questo momento. Perché l'urgenza in questo momento è che vengano individuati e arrestati al più presto i responsabili. Questo potrebbe dare delle risposte. Sì, ovviamente dalla parte delle vittime sono state denunciate, però difficile che venga fuori qualcosa. Più che altro bisogna organizzarsi meglio la prossima volta, perché è una cosa... Ecco, però tutto questo volta... chiaramente lascerà sempre un margine di grande dubbio su chi fossero poi effettivamente, no, questi responsabili di queste violenze, con il rischio di strumentalizzazioni che appunto, dicevamo. Ma questo secondo te appunto potrà in qualche modo cambiare anche la percezione dei tedeschi nei confronti dei tanti migranti che in questi mesi sono stati accolti? Ma io temo di sì, questo è il problema, temo di sì, perché insomma non è, come tutti dicono, non è solo che arrivano lì gli ingegneri bene educati, ma anche altri ragazzi che non hanno la stessa percezione anche culturale di cosa è la donna per loro. Dunque è un problema molto molto presente, cioè non si può sottovalutare questo. Se uno è cresciuto per cui la donna è praticamente un essere inferiore, è una cosa completamente diversa. Se lui vede adesso le ragazze come europee, come tedesche, come si comportano, per lui lo considera come una provocazione, e questo è una differenza culturale non indifferente. Nella cultura è molto è diffusa in quella zona, la donna ha un altro ruolo, dunque è molto difficile quando loro sono praticamente piantati improvvisamente in un altro contesto culturale, non è che loro si adeguano immediatamente. Però è anche vero che in questo momento le donne, le ragazze tedesche sentono a rischio la loro stessa libertà e possibilità di muoversi e di spostarsi. Questo è assolutamente, se il primo consiglio è di tenersi lontano lunghezza di un braccio, è un po' assurdo, voglio dire, questo è anche molto infelice, questo consiglio dato dal sindaco di Colonia. È già una sconfitta, già di per sé. Io lo trovo di sì, è proprio il contrario, che quello che le donne volevano e che hanno ottenuto in Germania, non è mai stato così, insomma. Però voglio dire, anche qualsiasi le tedesche ovviamente sono abituate a non essere comportarsi come insomma come se magari in un paese arabo, ovviamente sono più emancipate, più libere, e questa è una cosa anche da mantenere, da proteggere, e non dire adesso facciamo noi un passo indietro. Temi delicati e difficili, quelli dell'immigrazione e dell'integrazione, proprio nella quotidianità. Ma di violenze sulle donne è piena, purtroppo, pure la storia del mito. Linea allora, come sempre, a questo punto, alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore all'Università di Trento e autore per Sonzogno di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. C'è un mito greco che racconta una strana storia di stupri di gruppo, una specie di impazzimento collettivo che porta ad assalti senza ritegno alle donne. Il mito racconta infatti che un giorno il popolo dei Lapiti in Tessaglia celebrò delle nozze collettive. Alla cerimonia furono invitati anche i centauri, creature favolose, metà uomini e metà cavalli. A quella festa i centauri si ubriacarono, incominciarono a dar fuori di matto e misero le mani addosso alle donne. I Lapiti intervennero in difesa delle loro spose. Ne nacque una zuffa colossale, una battaglia epica in cui fu sparso molto sangue. Era un mito famosissimo. Nel V secolo a.C. lo troviamo raffigurato sui più importanti monumenti greci, dal Tempio di Zeus ad Olimpia fino al Partenone di Atene, anche perché il mito serviva a raccontare in maniera allegorica e propagandistica un fatto contemporaneo: le guerre, lo scontro tra i greci e i persiani. Da un lato c'erano i greci, c'era la civiltà occidentale che come i Lapiti rispettava le regole delle leggi, dall'altro c'erano i persiani, i barbari, gli stranieri, gli orientali, violenti e selvaggi come i centauri che abusavano delle donne. Va notato però che tra gli eroi che aiutarono i Lapiti a difendere le loro donne c'era anche Teseo, il leggendario re di Atene, un eroe che in verità, fin dall'antichità più remota, era noto anche come un Don Giovanni impenitente, uno stupratore di fanciulle. Evidentemente non tutto era così semplice e univoco nel mito come nella realtà. Ma voi cosa pensate di queste vicende di Colonia? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure sul blog Storiacce. Su Twitter invece ci trovate all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!